Santo Sabato. Sì, buonasera, e beh, come va? Qua che abbiamo chiuso da un bel po', qua naturalmente rimane acceso, però io sono alla televisione, ho sentito urlazzare, chiamare a gran voce addirittura. Capo, ma non sai che io sono così. Io bisogna fare macello, se no non è divertimento. Cazzo, lo sai che mi manca la movida, porca miseria, che rimane un raio, cazzo, il COVID. Ah, ti piaceva la vita mondana un po', dai. E già passerà magari un po' rognosetto, cioè non è come un'influenza stagionale. Questa è una cosa più rognosetta per come è stato costruito il virus, perché sia stata la natura o i cinesi, è abbastanza fetente, però come tutte le altre cose è destinato a passare. Me lo auguro, perché non vedo l'ora di... Poi, quando passa, ti giuro che quando posso, mi piglio che sembri a Ghera, che parli, non 4, 8. Mi hai preceduto, ho detto, adesso dirà, dice, alla prima, appena passa una bella imbriaghiera per festeggiare. Sì, mi è imbriagato tu. Io credo una sola volta, però è stato, diciamo, un errore. È lungo da spiegare, Anto, però secondo me dentro quel vino ci hanno messo qualcosa di psicoattivo, non è possibile. Non ti dico i particolari, vabbè. È un po' troppo fuori di testa, mi sembra, per essere solo vino, ma... Io, guarda, una volta mi sono ubriacato, ma non così, forte. Presente di quello che ho fatto? Si sono riuscito a durendo in mezzo a lei, ma talmente ero ubriaco. Poi me ne sono rialzato, sono sceso a casa e io mi stavo sbattendo nei muri, un casino. No, guarda, in breve, tanti anni fa facevano questi concerti rock, metal, tirandaggi erano, no, però c'è un bel ambiente, no? La musica era buona, e c'è, tra le varie cose c'era questo stand, vendeva vino sfuso, gli davi un'offerta, tipo festare l'unità, gli davi un'offerta, ti davano un bicchiere di vino, c'era scritto però vino buono, tra virgolette. Quel buono, tra virgolette, mi ha preoccupato, perché io già non bevo, quindi lo reggo poco. E in più secondo me c'era qualcosina dentro, perché l'effetto è stato sorprendente, veramente, anzi potrei dire stupefacente l'effetto, capito? Capisci a me? Kappa. Sì. Era più combinato pure io, no? Cioè, a cantare in discoteca alle 4 di Manzano, grazie a una mina, lui. Io e la mia compagna, sempre insieme, però è la verità, non altre persone, sempre insieme. Una volta ci siamo talmente ubriacati che ci davamo la colpa uno con l'altro. Sì, un po' l'effetto, ero cosciente naturalmente, però ero un po' troppo fuori di testa per come ero il carattere mio. E meno male che non era la droga dello stufo, te immagini, durante il concerto mi addormentavo, perdevo coscienza, mi facevano l'allaccio da addormentato. Come l'allaccio addormentati? No, è uno scherzo, cioè, tu sai che esiste la droga dello stupro, no? Che dei delinquenti vanno a dare alle ragazze un drink, no? Ci hanno messo questa droga dentro, quelle si addormentano a crasto, è come un anestetico, e loro poi, capito, si appartano, fanno quello che devono fare e quelle non si accorgono di niente. Allora, immagina se mettevano qualcosa del genere nel vino, io drumiddu e mi facevano l'allaccio mentre ero addormentato. Che cazzo, dramunia e da e tu tutto è possibile, mi. Non si sa mai, no, infatti le ragazze devono, soprattutto quelle giovani che sono, non sanno i sistemi che usano quelli lofi, tra cui Bing Crosby mi pare o chi era. Cioè non devono accettare drink da nemmeno amici, non devono accettare drink, devono vedere la roba che esce dalla bottiglia, cioè il drink glielo deve fare il barista di fronte, deve vedere la roba che esce dalla bottiglia, allora loro gli danno già i bicchieri pronti, capito? Pronti con la droga in mezzo, capito? No, non bisogna accettarne assolutamente. Vabbè che certe, sembra che ci caschino apposta, non lo so. Perché o il quoziente intellettivo è sotto zero oppure vabbè. Andiamo a cosa si inizia. Da poi l'indomani il gatto è tutta durore invece. Comunque ormai, cioè, ormai credo che le bevano dagli 11 anni, non tutti naturalmente, ragazzi e ragazze. L'altro giorno c'era sulla nuova, questa di era meno di 14 anni, avrà avuto 13 anni, cioè 14 non compiuti, ed era già in coma etilico, e la soccorsa alla polizia, lì alle, come si chiama, dove sono i magistrali, vicino ai giardini, lì, che si in coma etilico a 13 anni. Non, ai miei tempi non esisteva, non era nemmeno pensabile una cosa del genere, alcolici non ne toccavamo, stiamo scherzando. Che se no pigliamo il caffè da bocca, pigliamo la bocca, ti passa la preghiera, ma voi per la mamma roba che ti troncavano i rossi. No, peggio, io c'avevo un nonno che mi troncava le ossa, era uno molto all'antica, ma nonno non ti toccavano, se sgarravi abbassava lo sguardo e capivi già che avevi sgarrato, mamma mia, no, era un pezzo di pane, però se uscivi fuori dai binari, ti ho detto, abbassava lo sguardo. Sì, vabbè, lo sguardo non basta. Quando si comporta male, logicamente, lo sguardo non è sempre che basta, lo sguardo, cioè cosa fai? Però allora l'educazione era che pigliavi i capiotti, se facevi una cosa del genere già ti passava, ma da bugni su sai, in punizione. Ma io ero tranquillo, Antonio, non ho mai combinato niente di tanto grave da essere sussato, diciamo, assolutamente, vabbè, da bambino piccolo, qualche sculaccione, quando facevo casino all'asilo, poi però mi sono dato una regolata, non ho mai combinato niente di grave, vabbè, qualche finestra rotta giocando da ragazzino, ma io me ne fuggivo, cano ma ciappani, giocando a tirare limoni nelle villette di su, e una volta non volendo abbiamo rotto un vetro, è arrivato il tipo, non so se fosse l'amministratore che abitava, io me ne sono fuggito, ho lasciato gli altri nella cacca. Fatto bene. Ma io faccio molte cose molto più peggio di te. Io una volta solo l'ho combinato, quando ero più piccolo. La suora ha pigliato, perché siccome ne combinavo tante all'oratorio, ha pigliato metà cottura. Mi ha tirato, mi ha buttato fuori dall'oratorio, io ne manco le sabbia, prendo una chiave e smonto la ruota. La ruota della macchina. Io piccolino ero, ma in qualche maniera ce l'ho fatta a mollare il bullone, mi sono messo sopra a colpi. Cazzo, dopo di un'ora va a partire il cazzo ne fa la macchina in terra. Cioè da bambino l'hai fatto, cesso. No, noi, vabbè, mi hanno dato un'educazione molto... cioè di non danneggiare la roba degli altri eccetera, adesso invece guarda, spaccano macchine di tutto, distruggono quello che gli capita, non hanno rispetto per la proprietà altrui, per niente, e la colpa ovviamente è dei genitori, perché li fanno fare il cacchio che vogliono, capito? anzi non solo, ma se vai a riprendere i figli o a denunciarli, danno ragione ai figli, capito? Lì il problema è alla fonte, capito? Ci sono i genitori, la colpa. Cosa vanno a dire che la scuola deve educare? No, a educare bisogna educare a scuola, a casa voglio dire. A scuola si va a imparare roba. Non che smerci i figli a scuola per farli educare dagli insegnanti, mi stavo scherzando. Sì, hai ragione, vai. Ma tu ne hai figli tu? No, no, no, per carità di Dio, no, no. Io non sono per i figli, non sono per il matrimonio, non voglio rotture di balle, assolutamente. Ho avuto sempre le idee chiare, Antu. Piuttosto ho detto mi faccio la vasectomia, già lo sai cos'è, sì. Ah, vabbè, cosa c'entra? No, secondo cosa parte mi è migliore ora il troncurossi io. Io ho fatto l'antica un po', Non è così, no. Io sono per la famiglia, sono per altre cose, però sono anche per l'educazione. Sì, sì, sì, appunto, proprio perché sia l'antica sia per educare i figli, ma vanno anche seguiti i figli, cioè quando vedi ragazzini di 11 anni e ragazzine che sono i più vulnerabili, che tornano alle 5 di mattina sbronze se tornano pure. E io mi chiedo, ma i genitori dove stanno? Vabbè, comunque sì, Anto, io non ho il culto della famiglia, tantomeno il matrimonio. Sono sempre stato molto attento con le ragazze, ho preso tutte le precauzioni perché non voglio rotture di balle, in poche parole. E sono fatto così, Anto. Vabbè, pensiamo che sei sempre stato una persona che... Però io dico una cosa, dico, cioè, prima o poi però si fece soli, si riflette un po'. Io sono per un altro concetto solo, ma poi per rotto di balle cosa? Io, cioè, se mi esce me lo prendo il bambino, non è un problema, però lo educo anche bene. Vabbè, quello sì, cioè se proprio arriva, certo li devi voler bene, non è che lo... Però ti ho detto che ho fatto il possibile per evitare complicazioni, non ne voglio sapere io. E invece sentivo anche, manco 18 anni avevo quelle pensando già al matrimonio, ma stiamo scherzando. E poi sai cos'è, ne ho viste troppe un po' di... amici che si sono voluti sposare troppo giovani, dicendo che avevano le idee chiare, che avevano assolutamente le idee chiare, sono tutti separati e in malo modo pure. Ho visto associazioni familiari in famiglia anche, no? E quindi io non sono per il matrimonio assolutamente. D'altronde era così anche mio padre, non... E un po' lo capisco. Bene, sempre discorsi allegri. Beh, anche questo ci vuole un discorso. Vabbè, però magari, cioè, se trovi una persona che ti vuole bene, che ci tiene, no. Non è vado incazzati, capito? Dipende sempre. Io invece mi sono staccato... sempre per staccarmi dai miei genitori, perché no, vabbè, quando c'era mia madre era un conto, poi dopo sono subentrate altre cose, non ne ho voluto più sapere, perché ho sempre trovato il negativo. Per me ognuno deve stare a casa sua quando è grande, per questo è il mio pensiero, perché poi nascono complicanze, giramento di balle. E anche quello, ci vuole l'indipendenza, purtroppo qua non, per me non è stato possibile, non, cioè, io il poco che ho lavorato tanto era in nero, il poco è, e quindi cosa, non potevo materialmente prendermi casa, no, assolutamente, e quindi sono rimasto in famiglia. Sì, i genitori un po' quando invecchiano cominciano a diventare un po' una rottura di scatole, però d'altronde loro per noi hanno fatto tanto, no, da quando siamo nati, e quindi è giusto anche contraccambiare. Così è stato anche con nonna, cioè quando nonna era praticamente allettata, disabile, ce ne siamo presi cura tutti, nipoti compresi, almeno parlo di me. Non siamo di quelli che li buttano in istituto, li abbandonano in qualche ospizio, non esiste. Sono dei lager certi istituti, ospizi, come le vuoi chiamare, case di riposo, certi sono dei veri e propri lager, dove anche li picchiano, Cioè se c'è un anziano che magari non capisce perché ha l'Alzheimer o ha altre patologie di testa, in certi posti li picchiano pure a schiaffoni e chissà cos'altro. Hai visto che ogni tanto fanno delle inchieste un po' e vedono che anziani gli tiravano la faccia nel piatto, li prendevano a schiaffi, li insultavano, li lasciavano in mezzo alla propria cacca. E lì bisogna stare attenti, perché se certi sono degli aguzzini, capito? Non sono persone che possono badare a persone anziane. E vabbè, purtroppo, la categoria dilaga. Sì, vabbè, quello ha ragione. Però se io dico anche una cosa, se io c'è anche questi qua sono abbandonati a se stesso, queste persone che vanno lì. Perché se io sento mia madre o mio padre che mi dicono una cosa del genere, allora cosa rifotto? Cioè non fa manco in tempo a dirmelo che io sto già picchiando tutti. Vabbè, però sai cos'è, picchiando siamo sempre lì, si finisce dalla parte del torto, poi in galera ci vai tu e non loro, invece bisogna attaccarli per vie legali e bisogna farli finire in galera per tutte le cose fatte al proprio parente, capito? Non è questione solo i QD e poi quello ti si fa vedere tutto ingessato, ti fa causa, già lo sai come, no? È un macello. Sì, allora cosa dico io? Metti il buono tutti canti di barra il culo, metti il buono a me, fammi causa, fammelo che vuoi. Però se io so che tu tocchi mia madre, tocchi il mio familiare, io me ne becio, gatto, tanto di chi si cazzotte. Allora come ti divorzo, dammelo e fammelo gatto che vuoi, vai, che non me ne putti nulla. Cioè non me ne frega niente proprio, vai dallo tribunale, dalla ciampa di Lunguro, vai. Però intanto io da giù c'è di paccato la faccia, poi cioè a me non me ne frega niente, proprio no. Manco ballo puro un altro. Cioè se fa una cosa del genere a mia madre o padre, mica uno una volta andato da mia madre l'ha offesa, ha fatto la morte qua a fare il culo, immaginiamoci se mi metto problema, cazzo, la dico tu voce, ma forte però l'ho picchiato, perché prima abitavo lì, immaginiamoci se mi metto problemi io a cosa, mi ha fatto nulla a me, chiunque mi, soprattutto mia madre, quanto ci tenevo, cioè se uno li dia un bacio, io li partivo subito, lo picchiavo, cioè una volta sono andato a pigliare a fare un culo, cioè hanno scambiato la sorella per mia madre, hanno scambiato, cioè tutto zorro, non so se li conosci, cioè una giussa, grande cutto. Cioè, anche mio padre è andato da Pissichini, legato a quei piedi di roccio. Immaginiamoci se mi metto problemi. Lo so, l'impulso è quello, però le cose vanno anche un po' ragionate. Fatte a mente fredda, tanto. Di più non posso dire. comunque sì, di tutti i cosi ne capitano in questi istituti. Per esempio negli Stati Uniti, dove sono molto, molto indipendenti i ragazzi, lo sono sempre stati, lì sembra che arrivino a un'età e dicano: beh, cari genitori, grazie di tutto e ci vediamo. Se ne vanno dall'altra parte degli Stati Uniti, ognuno per sé, Dio per tutti. È un'altra mentalità, è lì, con pregi e difetti naturalmente. Però secondo me l'indipendenza ci vuole, perché ti aiuta, cioè ti aiuta anche a crescere. È inutile che stiamo a dire, cioè uno magari è meno di un altro, però per come ho vissuto io voglio l'indipendenza e non me ne pento di ciò che ho fatto, che me ne sono andato da lì. Non lo pento assolutamente, perché anche c'erano tanti problemi, c'erano. Ed è giusto che sia andata a guida, stai crescendo, ma ti a cambiare l'acqua di oliva, risalgo. Ehi, vai Anto in fretta, dai, così poi ci salutiamo, che sto guardando l'ora, devo iniziare a vedere roba, dai, vai. Antonio è tornato da cambiare l'acqua alle olive e così inizio a vedermi questo benedetto film, se no ogni volta va a finire nel solito modo, che la TV non la sto più seguendo, mi tocca accendere la notte tardi, la notte fonda. Oh yeah. Vai Tony, riprendi tu, dai, così poi saluto e la serata è già pronta, già preparata. Che film ve lo devi guardare? Boh, Millennium 4. Millennium 4 è un film d'azione che non ho mai visto. Ho visto fino al 3. Una ragazza, non ho capito se è un mezzo agente segreto, cosa è, tutto sparatori, inseguimenti, molto molto movimentato. Però hanno cambiato l'attrice, mentre nei primi tre film era una certa attrice, hanno messo un'attrice un po' più, non dico brutta, diversa, sembra di vedere un film differente, insomma. Riprendi Anto. Era il film mio. Ma qui, per caso, in quei pacchetti che prendete per quei film? Pacchetti? Ma pacchetti TV, tipo, come si chiama, Netflix, quella roba lì? Un affare del genere. No, DVD, DVD, DVD, DVX, videocassette, un po' di tutto, roba accumulata negli anni, Tony. Capito. Bene, vabbè, io mi sono messo quasi a letto, tutto fatto, per carità, oggi mi ha dato che fare i cagnolini, la mazza gliene scenda che... Tony, ma tu non stai più entrando come prima, non ti sento mai, o meglio, quando... non so, ce n'hanno tutti i giorni, però non stai entrando quasi nulla. Cappa. Molto, molto indaffarato, sia per lavoro... che poi il pomeriggio sto facendo un'altra cosa per una carissima amica, molto da amica, e quindi poi fare in casa e mi è rimasta la gana di entrare, davvero, qualche volta spazio, non c'è nessuno, lo spiego tutto subito, ma alcuni secondi e basta, non è che sto lì a aspettare, ascoltare, no. Mi va poco, vedo che c'è poca gente, capito, adesso ho acceso, a vedere chi c'è. Mi ho sentito, perché se non sentivo nessuno avrei rispetto subito. Tanto, non c'è il tanto, capito? Ma lui. Sì, infatti è un po', come ho detto, questo hobby è un po' in calo, ormai questa 27 non so se sia una cosa buona questa liberalizzazione. che non stiamo cercando di liberare frequenze per altri servizi, a partire dai 27.5, quelli dove si fanno di ex, ho sentito roba europea, movimento, mamma mia, cominceranno a chiudere le bande un po' sopra, un po' sotto, e vabbè. E poi vabbè, un periodo pure importanti, importantine, tipo l'altro giorno a Giulio, oggi a Uranio, insomma un giorno su due ci sono portanti, portantine, un po' di Santiago 7, un po' Santiago 9, 25, un po' Santiago 5, portanti adesso a manca, dai. E quindi questo hobby è praticamente rovinato. Ma io sinceramente ho acceso qualche minuto, non di più, perché era con l'amica, gli ho fatto vedere il barattino, e lei che fa la posta, c'era una portante, sì, con un fischio tremendo che... e c'era sul fianco che ho sentito che, non so, la direzione della antenna, mi ha confermato che era il centro Sassari, poi... niente, poi continuava col fischio che è veramente fastidioso. Niente, ho spento, ho acceso il PMR e ho detto guarda, questa è la frequenza più silenziosa. Gliel'ho fatto sentire, guardare, spazzolato un pochettino, ho trovato, non c'è nessuno, mi dispiace. Tutto qua. E mi dice, cosa entra a fare? Ho fatto anche brutte figure, se devo andare a fiore casino, no, non vi credo. Sì, poi anche sul 10 poca roba, amici. Quando siamo in 2, in 3, raramente anche in 4, poi magari uno chiude, l'altro entra, capito, non c'è costanza, ma nemmeno da parte mia. Oggi ero andato a fare scannerizzazioni di documenti, a mandare a questi terroni di Taranto, perché c'è la storia di questa casa da dividere in tanti, che ci andrà bene se andiamo in pari con le spese qua, se riusciamo a ripagare almeno le spese notarili e cose, è di lusso già. Vabbè, qua sono tre fratelli, cioè mamma, mia zia, mio zio, lì a Taranto lo stesso sono un caraccio di gente, c'è una casa da vendere, sperando che si venda, poi ci sono dei titoli, soldi che poi sono investiti in questi titoli del cavolo, che praticamente soldi in tasca non te ne entrano, devi cercare di svendere i titoli per avere un pasticcio hanno fatto. L'anziana, no, che non c'è più, si è fatta abbindolare da qualche, come si chiamano, operatore finanziario per mettere i soldi in questi titoli del cavolo, e praticamente era meglio avere i soldi liquidi, tutto lì, che ora sono 9:15. Beh, detto ciò, dai, come ti ho detto prima, io vado e ci sentiremo quando capita. Ciao anche a Torino, ben sentito, ciao a tutti gli ascoltoni, e ci sentiamo in migliori occasioni, ok? Sempre in migliori occasioni, dico sempre così, invece tutto va peggio, tocchiamo un ferro. Vai Tony, buonasera a tutti, ciao ciao. Ok, ciao Marco Rimmo, con il Tiso, c'è la Grichella, ma è che sì, c'è tutto normale, chiuso tutto, ma quanto pare stavo dicendo al sindaco, lui. Andiamo bene, ripeto tu. Kappa, ciao Marco, dai, ci risentiamo. In prigione ci risarrà. È tutto casino, e guarda. A me non me ne fotto perché io lavoro lo stesso. Noi abbiamo sempre lavorato, anche febbraio, marzo, aprile, maggio, capito? Noi lavoriamo sempre. E anche noi lavoriamo sempre. A voglia, se voi cadete, voi mangiate, tocca a travagliare, se no non mangi nemmeno, perché non c'è neanche gas. Ho trovato il discorso poc'anzi, sì, dentro poco perché me ne sta passando la voglia, una volta mi viene il pallino, mi sta avendo tutto e buonanotte, capito? Non mi dà né da mangiare, né niente il baracchino. Sì, mi piace fare due fiacche, ma cosa c'è casino delle masse alla gana? Non la accendi per un po' di giorni, capito? Ma gara che c'è un gatto, io no... Sì, poi c'è quello che fa appena un ferruttino, ma non capisco gli altri chi sono. Quello che qualche volta ho sentito che faceva tutto, ho detto guarda che tua madre non c'è qua, e cosa vuoi dirgli? Eppure fa un basso il segnale, boh, alla fine manco da lì importanza. Cos'è che ha tratto l'attacco lineare, no? Del basso 4 voci sopra. Ma deve essere un'altra cosa da fare che rompe le scatole. Non ha amici, perché uno che si comporta così per me è zero, capito? È escluso da tutti, quindi automaticamente... Che lo so, non guarda, perché sto mandando messaggi e non vorrei che fosse qualche amica, lascia vedere. Ah, è munica da raghi, che c'è macchia di cadena, cosa vuoi fare? No? Poi, per carità. Già lo so, già. Capo, comunque mi arrivi più forte tu. Da quando ho alzato l'antenna, mi sento tutti più forte, mi sento. Oh, già. E lasciarli perdere questi personaggi. Ebbene, arrivato a questo punto, per carità. Comunque, sono contento che ti arrivo meglio. Ah, voglia mi arrivi. Escia. Mi sarò visto e sapevo come si chiamava, non mi arrivo così più forte, la verità, e sono contento. Ma io sono fuori sassare, già lo sai, e ti dirò la verità, devo alzarmi l'antenna, non soltanto 6 metri di palo, 6 metri di palo da piano terra, quindi vorrei sollevare altri 2-3 metri se è possibile. Mi sei quasi 9,20 se non che me. Sono liscio ai 5 watt, è buco. Anche io sono abbastanza potente, no. Ma tanto, no, non ne vale la pena uscire più forte. No, sei quasi 9,20, la verità, ti sento, è una bomba. Lo sai dopo di più perché mi accorgevo che no, non rendeva come doveva rendere. Assolutamente. Adesso che lo... dopo di più sono contento, la verità, sono veramente contento di stazionare, sono buonissime, capo, va bene. E come radio, è buona la mia, sì. Una bomba, no. Meglio tu ci dai. Togli una curiosità, ma tu porti le bombole, giusto? Capo. Cosa vuoi dirci? Da quanto lo state dando? Presa 20 e portata a 3 euro in più, 23. Capito, vedi che almeno sono tutti così, dai. Io abito già la sacca Miglio, lo stesso. Uguale, è vero, che te la porta Giuseppe? No, io me la porto. Ma vai a prendertela tu, ma la prendi da pala o la prendi? Ma sinceramente, guarda, non lo ricapita, non ho uno fisso, diciamo, più delle volte mi capita con la pedaniera. Ah, la prende da Valerio, la prende. Più di una volta, non sempre, non mi capita, capito, a volte via da Rottose, a volte da, come si chiama, Pistoluzzi, con le motte. No. Vabbè, quello di Predanietta o via Barbagia sono adesso è Valerio Ruggio ce l'ha. Pistoruzzi si è ritirato, cioè, è anziano, è a tutti i manni e hanno preferito ritirarsi. No, aspetta, quello del monte, che lo conosco il ragazzino che c'è la faccia che si è un po' bruciata. Quello lì lo sai chi è, quello lì è coso, tu stai parlando di Lelle. E si è ritirato, si è. Via Barbagia. Yes. E quando si è ritirato? Va bene, sono un bel senza l'archivio io. Si è ritirato, si è. Quello è Pistoruzzi, quello è Lele. Non è cappa. Non sono una moto senza andare là, capito? Ecco, non mi capita, boh. Tu invece dove ce l'hai? Via Milano ce l'ho. ICAI per tutto fermarsi dell'azienda. Lì ce l'abbiamo, prima ce l'avevamo via di altro. Tu fiducia te la chiamo io, la roba là qua, fai sono più un po' di chilometri. Non so, purtroppo io lavoro lì. Forse qua. Sì, no, comunque quello lì si è ritirato, si è pitoso, si sono ritirati. Adesso c'è questo di Valerio Ruggio, il come si dice? Il negozio. Ecco, loro ci lavora a Palmedio, ci lavora, da un periodo parlava al baracchino pure. Poi ce n'è un altro. Che via è quella lì, per piazza Santo Ruglio, quindi di quella via, che cavolo, non mi si dice, poi ci passo spesso volentieri quando vado a Trambacco nelle scuole, che c'è la genuina negozio alimentare, che c'è Marcella lì, no, mi lamento, e là c'è un simbolo lo stesso, che c'è davanti nel baracchino. Rapporti che è via Turati, è in via Cattalucchino. Via Turati, non mi ci spiega. Noi andiamo su spesso alla scuola che c'è lo scientifico all'inizio, mi chiamate Gappa, e poi il Ticino numero 3. Io lavoro tutta la scuola della provincia di Sassa, domani sono a Alghero. Cosa fai tu? Manutenzione, impianti elettrici idrici. Ah, ho capito, Sì, quello lì è in via Turati. Prima noi ce l'avevamo in via di Arte, un libero Bricottelle una volta, che poi l'hanno rifatto e l'aveva morto lui, è morto molto seguente. Poi i lavori si sono bloccati un po', dai. Io ce l'avevamo lì, dove c'è il meccanico, il signor Torino, lì ce l'avevamo. C'era il supermercato lì ce l'avevamo prima. Sì, poi c'era anche, non so se non c'è più, infatti tempo fa sto parlando, mi ricordo che c'era un bombolaio, la bombola si chiamava lì in via Manno, di fronte a Multindo, che adesso è ovviamente Conat. No, l'ho conosciuto io. Beh, molto tempo fa, capito? Andrà bene, quindi. Vabbè, che ci vuoi fare? Io sto aspettando la famosa lettera dell'Inps che ha come il pane, che ogni volta che rientro a casa vedo là la posta, la buca delle lettere, nuda, non è rivida, porca miseria. In prigione di ne è andata. Eia. La biglia è in culo, la biglia è andata in pensione, e si sta troppo bene. Tanto non mi pare più la pena a travagliarlo. Quando uno arriva a quel tanto se ne va in pensione e sta troppo bene. Venga, ce l'ho fatto il sierologico preso Covid, levato il sangue dal braccio, si è arrivato la chiesa passata al tampone, oggi è stato l'esponso, dice negativo, ok, era ora. Insomma, su 170 che siamo, sono in tutto 8 positivi, ce l'ha mandato in quarantena. Ma tu mi hai detto che lavori lì all'istituto, no? Fai il manutentore. Cazzo, conosciamo una persona lì. Cazzo, non mi viene il nome. Aspetta Antonio, io lavoro in tutti gli istituti. Ne abbiamo 64. Ma tu ce la conosci? Io lavoravo lì, quella Giovanna Fracassi, la conosci? Che scuola è? Lì mi pare che era nell'istituto lì, in via, come cavolo si chiama? Non mi viene la via adesso, in quella zona via Einaudi, chissà zona in Chibri. Allora, noi abbiamo gli industriali, che sono a fianco ai carabinieri, poi abbiamo scientifico e dice volte che abbiamo Tegrappa, poi abbiamo via Venezia, abbiamo Sciazzuni, via Rolando, abbiamo le magistrali Giardini, la succursale magistrale ce l'abbiamo via Istria, poi Sassari cosa ci abbiamo, Istituto d'Arte Piazza Darmi, la sede, e poi abbiamo la succursale su Ascari Gioca, poi abbiamo l'IPSAF che sono la Brighiero, poi c'è sempre l'IPSAF ex Geometri, e andiamo a Sassari. Poi abbiamo Alghero, abbiamo Bolo, abbiamo Muduso, abbiamo Porto Torres, abbiamo poi Bonorba, Porta Maggiore, Chiesi, un bel. Sì, lavorava proprio lì dove ho detto prima, ma sarà in Chivi, in via quello di Via Turati, lì quella zona. Ma penso che adesso non ci stia più lavorando perché magari è in pensione, perché non fa neanche tanto bene in salute. Comunque già andava da, come ti posso dire? Sì, lavorava lì, lavorava questa amica mia. Tu stai dicendo all'industriale, giusto? Cappa! Ora ti fa magrolina, Che ultimamente si è comprato la macchina nuova, la Capitola. Sì. E poverina messa male, infatti non sta più lavorando. Non l'ho più vista, è stata Giovanna. Sì, non stava bene, non veraccia. Era molto simpatica. Tu pensa che io ci lavoro 23 anni già, in tutte le scuole. Cappa, sì, lavorava proprio dove è tutto. Non l'ho più vista, non l'ho più sentita. Boh, chissà se sta bene, se sta male. Cioè, ma a me mi avevano detto che aveva conosciuto anche un uomo e si era ritirata un po', un uomo del paese. Non glielo ho mai chiesto. Io non interferisco mai su queste cose qua, capito, con le bidelle, professoresse, segretari, eccetera, cioè sono molto separate, divorziate, vedove. Io non condivido mai, diciamo, certi rapporti con la questione di lavoro, assolutamente, zero. Sono una persona molto educata, seria, cioè si scherza, si scherza, però ripeto, di molte maniere, sempre, capito. Il mio lavoro mi piace perché non è che lavoro fisso in una scuola, io giro tutte le scuole, tutti i paesi, quindi mi passa la... A me le settimane mi vola, ti giuro. A volte sono solo perché il mio collega si prende il permesso, è sindacalista, poi sta in segreteria, insomma. E quindi poi a me mi piace molto quando vado fuori, vedi, Ozieri, Bono, mi piace perché ripeto, vado fuori, sono tranquillo, vado là e rimango tutto il giorno, già c'è più di un'ora e mezzo di viaggio. Se invece sono a Sassari mi dà fastidio perché inizio il lavoro, ti chiamo al telefono, a che punto sei? E guarda, ne ho ancora, no, molla tutto. Vedi, vai alla tua scuola, c'è un'urgenza, sono al buio, va bene, ritiri tutto, scala, eccetera, attrezzatura, arrivi con la scuola e cominci a fare, dopo neanche mezz'ora ti chiamano, molla tutto per la tua scuola, insomma, dalla base all'acqua diventi manco. Invece quando sei fuori non ti chiamano, chiamo solo le squadre che sono a Sassari. Noi siamo in tutto 170 operai. Tanto mia azienda. Questa è un'azienda grossa, Cavolo. Aspetta che mi sto chiamando a te, un secondo. Cappa, io vado a cambiare la cogliolina, da. Ok. Hola. Oh, ci sei. Qua Tony. Ehi, ero alla massa che mi hanno chiamato. Matto. Uscendo tu, sì. Ci ho buttato un cacca. Ma sì, sta uscendo. E mi hanno chiamato per dare anche la buonanotte, di più del meno, capito. È ciò che sta succedendo nella città. Poi ce l'ho saputo un'altra. Sul tiro. al corso questo nigeriano senza maschera, i vigili e polizia municipale l'hanno fermato di mettersi la maschera. E lui tornò. Vedi i documenti. Qui c'è avuto un colpo, un vigile si è passato a Vince Lamena, che mi ha c'era il giubbotto rosso, e si è scappato. Via radio l'hanno chiamato, che è scappato verso il Savonato. Neanche fa la posta che la mamma ce l'ha trattato, l'ha pizzicato e l'hanno solo denunciato a piedi libero. Ma perché non ce lo buttate in mare? Mandate a rovinare un nuovo paese, gà. Magari tu vai tu, tu vai italiano, cazzo devi pagare un manno, vai e non rifatene niente. E allora, ma è così, guarda. A noi si vuole 400 euro di mucca, se si dà mascherina, compreso. A 10 macchine non dà. Forse me che sono razzista e si lascia pulire il buco sotto la macchina. Ma appunto, non so cosa dovevamo fare, dopo. Ma no, se portare il cellulare, dovevamo sequestrare innanzitutto, ma non c'ha patracce. Portarlo su al comando. E così lì chi sa cazzo di bandinata, a colpi di manganello, un di cazzo me ne apre e poi lasciarlo stare. Ma non ne fanno a fare, capito? Questi sono protetti. Io volevo comprarmi invece la balestra, che è un'arma silenziosa, a una uva, a pigliare la roba, ammazzarli, no, va a far culo. A colpi, a colpi del loro, ma pure loro però troppo imprudenti, troppo imprudenza. Io per tanto a me non cavato un manganello a paura per dire la cosa a lui, ma voi come ti c'era gli altri, l'avevo conto chi ti abbassava, chi ti asciusa, in chi vi mattesse, tanto cosa fai, tu buci sopra, arresti. Chi sono figlio di Caglia, rubiglia e cerco di fuori. Andà al giudice da che cazzo è, pigliate il cuore d'orra pure, cosa l'ha fatto? Nulla. Invece chi mi matta e siccome ti si gira, siccome tu c'hai per il posto che lui si è girato, lo prendi, ti ricordi chi c'ha giusta, che la metà è bassa, la vuoi vai e ci metti dal culo, vai. Cazzo protetti, ma come cazzo si fa a proteggere chi si merda? Ma veramente, ma se non vai tutti, ti cuori dentro e tu ti rammai la giacca. Purtroppo abbiamo un governo che ci mangia sopra queste persone, capito? Ecco perché sono protetti. Quelli che mangiano il governo, la comunità europea mangia un bel di là, la matrici c'è animale, ecco perché ne abbiamo un bel noi. Anche l'italiano sempre mangiando, la mazza viene in varia, faccia i dai. Ma che se la mia sotto i suoi paesi, non me la fotti nulla. Chi vuole il suo discorso, se ti dico un altro, tanto, siccome noi andiamo anche a Lumagno, andiamo a Valeroria, andiamo a Perfugas, comunque, tornando da Lumagno la settimana scorsa, non so se hai visto che hanno fatto una bella pista ciclabile tutta la litoranea, l'hai vista? Ho detto, l'hai vista quella pista ciclabile che hanno fatto? No, non ci sono ancora sceso lì. Bella, bella, dal Marina di Sorso finza quasi alla rotonda tardiva, tutta questa bella pista ciclabile. Comunque, hanno fatto quasi una discesa al mare, una rotatoria, e non ritrovo un bel po' di biciclette in mezzo alle balle. La Gesunate, c'è la pista ciclabile. E a te quello fare ragione che dopo ammazzali. Cazzo in ghiaccio, ma è rotto le balle, vattene a far culo. Cioè, ma quando mai c'è la pizza ciclabile, non la uso. Alla buti lo stesso. Pizza ciclabile, no, cammino sulla strada. Ecco, signore, la che mi ammazzo qualche uno. Allora, ho capito, adesso ho capito dov'è. Sì, l'ho vista. Ho capito, sei quel tratto lì. Ah, il problema è che a me mi è successo pure una volta che c'è gas di piste ciclabili, dovrebbero anche fare il pulire gli alberi e tutto, mi c'è entrata una spina dentro il copertone, mi c'è entrata. Cioè, ma un po' di ragione già ce l'hanno, fanno veramente schifo con le piste ciclabili, la verità. Però, cioè, se cammini al lato della strada, no, cammino troppo in mezzo alle balle. Se io ci vado in bicicletta, però cammino a un lato della strada. Se tu cammini a un lato della strada, non c'è problema, tu passi tranquillo e no, non c'è problema. problema. Sicuramente vuole va sempre di guate. Devo camminare quando sono in 5, 6, 7, 10 in fila indiana. No, cammino in mezzo, lumina tutti nuda. Sì, si deve fare così, deve camminare a un lato della strada e non in fila indiana, deve camminare proprio così, deve camminare. Ma non è affondato il ciclette. Sì, sì, io ci sono puttone, se vuoi dire in ciclette davvero si assustano. Ma lei canto camminare. Già lo sai meglio di me quando cammina un ciclista davvero, non ho niente così, o mica fa ridere. A chi io ci vado in bicicletta la verità? C'ho quella elettrica, c'ho. Ma io la uso per farmi le commissioni, capito? Non la uso per, non mi serve per scopo di allenarmi, io ragazzi mi alleno. A me mi serve per andare a farmi la spesa, per fare questo, per fare quest'altro. A me non serve allenarmi. Io non potrei mandare in bicicletta a fare il pizza. Anche quando comincia a vegliare, dentro il calzone leva. Con le bottigliette che sono 12 ogni pacco. Mi compare su dentro il bacco e fate le cose di amore, poi lascia il pizza. In bicicletta me ne male. No, vabbè, io non è che compro così, però dietro c'è il portabagagli, dietro ci riesco a fare stare due casse di acqua piccole e una grande, la leggo con la corda è fatto, la mia elettrica. Molte volte ti gioca tanto, pur le va da rito e cura i pisa nelle braccia. Va bene, ci riposiamo là, a chi cazzo rompe da fare, sembra così, ma non è così. E questi cani mi hanno dato che faga, mi rovedi, ma la mazza gli guardi, cioè non la metto, ma faccio un casino, gà. Tu pensa che io con la società lavorare, ho detto, ma lui ci ha fatto una bella giornata. Cazzo, ma io la neve lui sul giardino. E così, gli ho messo un piumone vecchio dentro la cuccia, che è grande la cuccia. Me l'hanno sbuadellata tutta canta, tutto la chiccottone che c'era dentro, con lo vatto, eccetera, tutto in giro, che c'è un casino, gatto. Oh, so. Mannaggi so. No, io non ne voglio animare. Ha già avuto gli atti la fidonze. Poi sono morte, cose. No, più animali, più. Troppo impegnativo, troppo giramento di palle, no. Se uno serve in pensione, lo può tenere la verità. Può tenere perché c'ha più spazio libero per loro, ma io gatto che travagli tutta la vita. Gatto, non buttare un cane io, so. E tu lavori mattina e sera, allora è un casino, sì. Io lavoro dalle 7.30 sino alle 14.10, il pomeriggio sono libero, però la mattina mi alzo alle 5, ci esco alle 7 da casa, 7-10, e poi timbro 2.10 e alle 2.20 sono a casa, però è quell'arco di mattinata, faccio un casino, dice, non li lascio in casa, sino guai a chi va in casino. Ma è tutto recintato, tutto chiuso, quindi. E di padre casino che vuole. E si possa divertire quanto vuole, ho capito. Però, giustamente, quando ho pensione ho più tempo per stare più vicino, capito, a loro. Ma non imparano a non far casino, la mazza di rivario. Ti altri sempre chi fa. E faccio una resta da qualche mobile e mi vedo loro le balle, un esempio giocato. Lo so, purtroppo è così, ti danno che fatti, danno. È un animale così, io che hanno a tempo i nocchi. E cazzo di buttagliotto, cazzo che se c'è in mezzo di manzano, una cuda a luna. Da poi da luna a deciare 2.5. Adesso ci sto facendo alle 2.5. E ne rientra alle 7.30 di sera, all'urlo. E che hanno a tempo. No. Vabbè, certo che è. E anche un bel lavoro un po' pesantuccio tuo, dai. Vabbè, anche il mio non è che sia leggero. Allora cosa ci capita, per esempio, che noi facciamo numero di incendio, il pilota già costa poco, pesa poco, ma gli altri due cominciano a pesare 80-120 kg. E in due a prenderli la schiena a tracche, e poi sono sempre la parte in massa della scuola, e svoltarlo, prenderlo in due, sollevarlo, portarlo sulle scale, a base calore, capito? Metto in macchina, portarlo a aggiustare, poi quando è pronto riprenderlo, riportarlo giù, ripiazzarlo, insomma, in tanti anni, ecco, proprio sulla giallina del disco, la faccia di Nivale Buendi. Fai putta. Si così bisogna, non è che... Ma a parte anche antincendio, tipo negli stabilimenti o solo scuole? Soprattutto scuole superiori. Noi siamo una SPA partecipata dalla provincia. Siamo gli operai della provincia, capito? Sì, capito. Allora. Già, non avete... Cioè, la vetta che fare. Uscire. Guarda, già ne avete giro, dai. Ma ti dico, qua, che forse non sai, noi tra spese, operai, impiegati, direttore, mezzi, roba che compriamo, sai quanto spendiamo al mese? Di una cifra. È un bel di dina. È una cosa che io non ci credevo. 500.000 euro al mese, sarebbe 1 miliardo. Noi all'anno la provincia ci dà 6 milioni, 12 miliardi. Beh, lo stipendi gota nemmeno, poi se c'è tutto regolare, con busta paga regolare, tutte cose. Cioè, vi vedi di nave buone, me, cazzo qui con dipendente costa. Pure l'assicurazione, pensa un po', costa. Tu pensa, il nostro direttore prende 12.000 euro al mese, direttore generale, quindi. Poi la roba che compriamo, 30, 60, 90, capito? Poi la provincia di Adelina, e noi compriamo la Erico, noi compriamo la Teba, ma adesso un po' tutti i posti. Il materiale costa di troppo, e quando fai i lavori straordinari là entro più soldini. A parte quello, noi facciamo i lavori dall'A alla Z. Pensa che abbiamo anche oltre 400 km di strade, che sono i nostri colleghi con i trattori che tagliano l'erba, eccetera, eccetera. Aggiustano asfalto e guadagnano. Pensa un po'. Nelle scuole facciamo edilizia, disinfestazione, tinteggiatura, muratura, elettrico, idrico, gestione calore. Noi facciamo tutto, dalla Z. Ecco perché siamo molti operai. Quindi, abbiamo una sede a Umbria e un'altra sede ce l'abbiamo a Tempio. Perché prima, i primi anni, caspita, ci mettevamo tutto un viaggio, andare e tornare, e poi cosa lavorare, un'oretta. E allora ho aperto altre due sedi. E siamo una bella ditta, abbastanza grande, non ci manca nulla. Ti posso dire che un giorno prima lo stipendio lo trovi, ma un giorno dopo non lo trovi. È perfetta, puntuale, guarda. La goccia fissa, buca la roccia, adesso che è entrato via a tempo determinato, la prova 45 giorni, grazie a Dio ci sono 23 anni, sono al 7° scatto della sanità, ogni scatto sono 3 anni, quindi è così. Ma meglio così, amato di andare in pensione da voi, e stai bene. Un dato d'occhio direi fatto e via. Sono contento comunque, e pochi sono lavori così, pochi. Io ho lavorato anche a Fiume Santo 10 anni, il più poco che ho lavorato in un'azienda sono 4 anni, fate conto. Io ho 39 anni in contributi, perché in 2-3 anni mi sono lavorato in nero, c'era un po' di crisi, sono partito fuori a lavorare con mio cognato. E ho 39 anni in contributi, a settembre ne ho fatto 66 anni. Ho la mia patologia, che sono cardiopatico, 75% di invalidità, ho scoperto che da poco ho decidono, quindi per la pensione, me l'hanno riconosciuta in legalità il 1° settembre 2016, ho recuperato i 4 anni e 8 mesi.